America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. For the breaking news, House Speaker Paul Ryan says that he will now no longer be defending Donald Trump and instead will be focusing solely on... Beh, avete sentito il newscast della notizia dominante politica di ieri nel post dibattito? Che cosa è successo? È successo che Paul Ryan, il presidente della Camera, il capo dei repubblicani in Parlamento, ha annunciato che non sosterrà più Donald Trump. Nei giorni scorsi aveva preso le distanze da Trump per quel che diceva nel video scandalo, però non aveva ancora ritirato il suo appoggio, cioè l'obiettivo comune era di cercare di conquistare la Casa Bianca. A questo punto ha detto: per me diventa fondamentale difendere la maggioranza alla Camera. Il messaggio non poteva essere più chiaro. Di fatto Ryan ci ha detto che i repubblicani ormai con certezza ritengono che Trump non solo non potrà mai vincere la Casa Bianca, ma potrebbe addirittura trascinare il partito in una sconfitta sia al Senato che alla Camera. Continuerò con il discorso politico perché è interessante secondo me fare un'analisi di quello che è successo nel post dibattito, ma passiamo prima a un evento importante che ci riguarda direttamente ieri a New York. Beh, forse chi di voi mi segue ha riconosciuto qual è stato l'evento di ieri. Beh, ieri era Columbus Day in America. Si festeggiava Cristoforo Colombo, che poi è la festa, diciamo, degli italoamericani, degli italiani d'America, orgogliosi di aver contribuito con questo loro antenato alla scoperta del continente. Ecco, questa celebrazione, tra l'altro, organizzata dalla Columbus Citizen Foundation, va avanti, pensate, dal 1929 e ormai è diventata una festa nazionale, soprattutto a New York. Ci sono alcune polemiche, perché, per esempio, a Denver, oppure nel Vermont, a Phoenix, in Arizona, diciamo, ci sono una quindicina di comunità, anche Minneapolis, Seattle, Albuquerque, che hanno smesso di festeggiare il Columbus Day. Con tono, se vogliamo, un po' polemico, hanno dedicato lo stesso giorno invece agli indiani d'America, a festeggiare gli indiani d'America. Ecco, io trovo questa, come dire, una reazione un po' polemica, eccessivamente politically correct. Era la festa degli italiani d'America, beh, lasciatela, è un momento di grande entusiasmo, di grande gioia. Per strada c'erano dei carrozzoni enormi, c'erano le bande, c'erano le canzoni italiane, c'erano i ballerini, c'erano le insomma, è stata una festa bellissima. Il presidente Barack Obama è intervenuto, ha detto: i legami fra Italia e Stati Uniti non potrebbero essere più forti di quanto sono oggi, grazie allo straordinario contributo dei nostri due popoli per cercare di raggiungere un futuro migliore. Our new NBC News Wall Street Journal poll showing Hillary Clinton opening up a big national lead. Ecco, torniamo alla politica, perché ieri le brutte notizie per Trump non si sono fermate alla decisione di Ryan di non appoggiare più il candidato per la Casa Bianca repubblicano, cosa tra l'altro, attenzione, senza precedenti, perché ci sono dei sondaggi post video scandalo e il distacco tra Trump e Hillary Clinton è salito a 11 punti percentuali, quasi il doppio di quello che era prima della diffusione del video. E non possiamo che immaginare che a questo punto i prossimi sondaggi daranno un distacco ancora più forte. Perché? Beh, perché alla fine in questo suo dibattito Trump è stato molto aggressivo, è stato molto volgare di nuovo. Ha detto persino: ti metterò in prigione se diventerò presidente. Dunque questo ha creato delle reazioni negative. Per cui se sul piano tattico Donald Trump forse ha fatto meglio di quello che ci si poteva aspettare, sul piano strategico la vittoria del dibattito va a Hillary Clinton. Ci sono però delle considerazioni importanti, secondo me, da fare. I think it's disgraceful and I think she should be ashamed of herself if you want to know the truth. Ecco, avete sentito uno stralcio di quel dibattito, un dibattito presidenziale in cui, beh, devo dire, hanno dominato attacchi reciproci, superficiali, antipatici, pungenti. Devo dire, in effetti ci si può lamentare dell'assenza di un'analisi seria, approfondita delle sfide, delle tematiche che sono aperte davanti a noi in uno dei momenti, tra l'altro, più difficili per le democrazie industriali e per la traiettoria del capitalismo. Però io dico, dobbiamo rassegnarci, perché nell'era del tempo reale le elezioni si vincono e si perdono sulla definizione del carattere, delle personalità dei candidati, soprattutto quando da una parte del tavolo c'è Donald Trump. C'è stato un titolo bellissimo in uno degli editoriali di ieri del New York Times: Donald Trump, Barbarian at the Debate. Barbarian at the Debate, chi di voi ricorda un libro molto importante, Barbarians at the Gate. C'è un po' questo gioco di parole, ma per dire che appunto il comportamento di Donald Trump è stato alquanto barbaro alla fine, e dunque Hillary si è adeguata, anche lei ha dovuto rispondere e evitare di essere sopraffatta su alcuni attacchi al suo carattere. Ecco, detto questo, però, che succede? Che la sostanza, l'analisi delle risposte, del tono, alla fine restano forse più nel dopo dibattito che durante il dibattito. E domenica notte Trump ha commesso un errore, si è addentrato in quel terreno, come dire, sdrucciolevole della minaccia. Ha annunciato la nomina di un procuratore per mandare Hillary in prigione se lui, Trump, dovesse vincere la Casa Bianca. Ecco, questa è un'intimidazione che suona molto più adatta a una dittatura di basso rango che agli Stati Uniti d'America. E qui torniamo a Ryan, perché secondo me Ryan ha scelto di abbandonare Trump non solo per le sue volgarità, ma perché, dicendo quello che ha detto sulla sua nomina di un procuratore speciale, in qualche modo Trump ha dimostrato di ignorare che la nomina di un procuratore speciale spetta al Dipartimento per la Giustizia, non alla Casa Bianca, e che quel processo di nomina è un processo molto severo che deve rispondere a requisiti molto stringenti sul merito per evitare che una democrazia garantista finisca per manipolare la legge a vantaggio della politica e non per questioni strettamente giuridiche. Ecco dunque che la questione della sostanza bloccata alla porta del dibattito e poi rientrata dalla finestra. Ecco, oggettivamente devo dire, Hillary in quel dibattito non poteva spiegare che quel che diceva Trump era tecnicamente scorretto, sarebbe stato troppo lungo, confuso, sarebbe uscita fuori tema, però la verità alla fine è emersa lo stesso, e in questo caso è venuta addirittura dall'opposizione, cioè dai repubblicani. Uno sviluppo che, pur con i mille problemi di cui tutti soffriamo nell'era del tempo reale, ci dà anche la misura di una democrazia solida, una democrazia che Trump, credo che ora possiamo dirlo con buoni margini di certezza, non potrà più azzoppare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Columbus Day. Torniamo al Columbus Day, dedichiamolo alla cultura italo-americana e dunque godiamoci insieme un po' di allegria. Dean Martin, Mambo Italiano. Hey Mambo, Mambo Italiano, hey, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up a Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with the hey Mambo. You don't wanna tarantala, hey, hey Mambo, no more mozzarella, hey Mambo, Mambo Italiano. Try an angelada with the fish, baccalà, and then hey Goomba, my lover, how you dance the rumba. But take some advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey Mambo, Mambo Italiano, hey, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, Joe. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!